se bevi poi finisci male. Dicono che se fumi finisce male. Dicono che poi se vivi finisce male. Dicono che poi si finisce male a seguire solo i propri istinti. Qualche accidente ti stroncherà se segui solo i tuoi istinti. E nessuno in realtà ha visto un uomo morire, ed io lo ricordo e non aveva mai fatto niente. Ed adesso in realtà vedo esattamente come si finisce. Bene o male ho vissuto, gli altri non pervenuti, gli altri non pervenuti, gli altri non pervenuti. Noi sprovveduti, gli altri non pervenuti. Dicono che poi finisci male. Dicono che se bevi poi finisci male. Dicono che se fumi finisce male. Dicono che poi se vivi finisce male. Dicono che poi si finisce male a seguire solo i propri istinti. Che accidente ti stroncherà se segui solo i tuoi istinti. E nessuno in realtà ha visto un uomo morire, ed io lo ricordo e non aveva mai fatto niente. Ed adesso in realtà vedo esattamente come si finisce. Bene o male ho vissuto, gli altri non.